Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene in questo Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e faccio parte dell'associazione Energicamente. Nella puntata di oggi vorrei parlarvi del Rescue Remedy, ovvero il rimedio più conosciuto dei fiori di Bach. Così come suggerisce il nome, viene utilizzato nei casi di emergenza, ovvero quando accade qualcosa di devastante per noi, i nostri cari, i nostri animali, come ad esempio l'incidente, un lutto improvviso, lo stress perpetuato nel tempo, l'aggressione e la paura. La somministrazione consiste in 4 gocce ogni 15 minuti finché non cominciamo a calmarci o finché i nostri cani, animali o pescari non cominciano a calmarsi, da prendere direttamente in bocca o in una bevanda. Il Rescue Remedy è molto utile per i nostri animali nel periodo di Capodanno, quando i fuochi d'artificio li terrorizzano, aiutando a non cedere al panico. In questo caso è ottimo partire in anticipo, preparando una boccetta contagocce da 30 ml con acqua e 4 gocce di Rescue Remedy e somministrare 4 gocce 4 volte al giorno, già una ventina di giorni prima, e concludere la somministrazione intorno alla prima settimana di gennaio. Durante il periodo di festeggiamento intenso, è consigliabile aumentare la frequenza delle somministrazioni anche a ogni 15 minuti finché il cane o l'animale non si calma. La Nelson Homeopathic Pharmacy, che è colei che produce i fiori di Bach secondo il metodo lasciato dal dottor Bach, ha creato un rescue remedy specifico per gli animali, quindi senza alcol. Oppure esiste anche il Night per umani, che anche questo è senza alcol. Negli anni i fiori di Bach sono stati rappresentati nell'immaginario collettivo solo da Rescue Remedy, al punto che diverse persone pensano che i fiori di Bach consistino esclusivamente in questo rimedio. La sua popolarità deriva infatti dall'immediato beneficio che apporta. È stato creato per avere un'azione veloce ed immediata, e quindi la sua efficacia è facilmente riscontrabile. Il Rescue Remedy aiuta in determinate situazioni, ma non è la panacea di tutti i mali. Se soffro di nostalgia, mi sento depresso, sono iperattiva, ad esempio, questo rimedio non mi darà alcun beneficio perché all'interno non è presente alcun fiore atto a lavorare su emozioni come queste. Lo stesso vale per i nostri animali. Ma c'è un altro aspetto molto importante da conoscere di questa essenza floreale. Facciamo conto che io assumo Rescue Remedy già da diverso tempo, nei momenti di bisogno in cui mi sento male. Sto utilizzando il rimedio come un salvavita. Sto male, prendo il Rescue Remedy, sto meglio. Sto facendo un pessimo lavoro su di me, perché questo rimedio si utilizza nei casi di emergenza e funziona solo quando è in atto una crisi. L'assunzione frequente del Rescue Remedy mi fa capire che non sto facendo nulla per migliorare la mia vita e che non sto lavorando su di me e sulle mie emozioni. Semplicemente reprimo le mie emozioni con qualcosa che mi fa stare meglio, ma non aiuta nel profondo. La differenza tra gli altri fiori di Bach e il Rescue Remedy consiste nel fatto che i fiori lavorano su una specifica emozione che ci fa stare male, invece il Rescue Remedy aiuta solo a uscire da crisi profonde. Il bisogno di assumerlo ci ricorda quindi quali sono i nostri punti deboli su cui possiamo lavorare per trasformarli in qualità. Una volta usciti dalla fase acuta della crisi, possiamo valutare un lavoro mirato con altri rimedi del sistema del dottor Bach, in modo da arrivare più a vivere momenti positivi che questi così negativamente intensi. Quindi il vero beneficio del Rescue Remedy è quello di aiutare nel momento di crisi, per essere poi dimenticato sul comodino, perché le crisi non sussistono più grazie ad un miglioramento su noi stessi. La stessa cosa vale anche per i nostri animali. Abusare del Rescue Remedy infatti non è mai bene. Inoltre esistono in commercio vari tipi di miscele già pronte di altre marche che dovrebbero aiutare a sopperire a determinati problemi o esigenze. Il problema di questi miscele già pronte è che non si basano sulle emozioni che noi realmente proviamo, ma viene dato una miscela per dormire che magari ha dei fiori che possono aiutare a dormire, però se all'interno non c'è il fiore che invece prevale per noi e che è un'emozione per cui non ci fa dormire, questi non servono a niente. Esiste anche una miscela pronta per smettere di fumare. Anche in questo caso dipende da che cos'è che a noi non ci fa smettere di fumare, qual è l'emozione dalla quale noi non riusciamo a staccarsi, e anche in questo caso i fiori non servono a molto. Un'altra miscela potrebbe essere quella per aiutarci a dimagrire. Bisogna però rendersi conto che ognuno di noi è fatto in una maniera diversa e quindi che le nostre emozioni non sono uguali. E quindi se noi non riusciamo a dimagrire, non è detto che la miscela dei fiori che ci aiutano a dimagrire contenga il fiore che ci trattiene a noi dall'iniziare una dieta o comunque portarla a termine. Per oggi è tutto, nella prossima puntata vi parlerò invece dei rimedi d'emergenza dei fiori australiani, ma prima di salutarvi, come sempre, vi lascio i nostri contatti, il nostro sito www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono, Francesca 340-2345-340, Franco 329-8989-669, Elisa 339 3860 123. Ricordatevi anche di mettere un mi piace alla nostra pagina su Facebook. Augurandovi un buon weekend, vi saluto e vi abbraccio alla prossima puntata e un grazie a Davide e Giorgio per la splendida opportunità.